9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, la puntata oggi è dedicata a un tema che apparentemente sembra non c'entrare molto con quello che trovate nei titoli e nella gerarchia delle notizie di oggi, però è un punto di fondo per analizzare i problemi economici e sociali del nostro paese, perché spessissimo, a proposito dei dati sull'occupazione, a proposito della riforma della scuola e dell'università, a proposito del merito e dell'ascensore sociale che non funziona, come non funziona nel nostro contesto rispetto al passato e soprattutto rispetto ad altri paesi che sono i nostri concorrenti, uno dei temi ricorrenti, fino a diventare un luogo comune, a mio giudizio, è quello di ritrarre la situazione del paese, considerando la condizione delle giovani generazioni di oggi e di coloro che si avviano a diventare i giovani, chi è ancora più giovane di loro, come una condizione praticamente dipinta tutta di nero, come una condizione di una specie di generazione perduta che si trova a essere per la prima volta dopo un lungo periodo nella storia, praticamente per la prima volta da che c'è l'unità di sicuro d'Italia, nella condizione di essere una generazione più povera di quella dei loro padri. Ma è davvero così? Proviamo a distinguere il grano dall'olio, cioè i problemi veri rispetto a una rappresentazione che a me pare totalmente infondata, pessimistica, ma anche che esprime soprattutto l'incapacità di sapere vedere lo sviluppo, la lunga serie storica che si appettisce sul presente, diventa priva di vista e quindi poi diventa anche priva davvero di senso delle proporzioni. Vedete, questa non è una trasmissione a favore o contro il governo in carica o a favore dell'ottimismo pregiudiziale, è una trasmissione fatta per restaurare a voi che siete padri innanzitutto, ma anche ai giovani che ci ascoltano, quest'ora sono più i padri e le madri che mi ascoltano che i figli, un sano senso di misura comparato della situazione del nostro paese e dei problemi da affrontare, perché senza di questo, con il piagnisteo, si finisce per chiedere più Stato, Stato, Stato, Stato, e quello per me è il problema, non la soluzione. Quindi ve lo dico apertamente qual è la questione. Non c'è niente che mi preoccupa di più di vedere interventi fatti da tante persone, magari in buona fede, che però partono dal presupposto di una situazione del nostro paese e dei loro figli che mi sembra largamente non comprovata dai dati di fatto. E allora bisogna ricordare i dati di fatto. Cominciamo innanzitutto con qualche decina di secondi del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Perché, direte voi? Perché il governatore della Banca d'Italia qualche giorno fa ha tenuto una lezione magistralis in onore di Giorgio Fua, un grande economista che si è posto insieme ai suoi discepoli il problema anche di come misurare lo sviluppo nel nostro paese. Era un po' un antesignano, un battistrada di coloro che poi chiedono che non sia più il PIL a misurare, insomma, lo sviluppo, ma ci siano indicatori di benessere, c'è chi propone l'indicatore della felicità e così via. Fua si poneva da battistrada problemi anche di questo tipo. In quella lezione magistrale il governatore ha sollevato il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei giovani, che sono sicuramente uno dei problemi più rilevanti del nostro contesto. Ma sentiamo le sue parole e cerchiamo di capire poi che cosa ha detto davvero. Ecco qua le parole di Mario Draghi. Nel mercato del lavoro il dualismo si è accentuato. Rimane diffusa l'occupazione irregolare stimata dall'Istat al 12% circa del totale delle unità di lavoro. Le riforme attuate, diffondendo l'uso di contratti a termine, hanno incoraggiato l'impiego del lavoro, portando ad aumentare l'occupazione negli anni precedenti la crisi, più che nei maggiori paesi dell'area dell'euro. Ma senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l'accumulazione di capitale umano specifico. Gli indicatori delle organizzazioni internazionali ci dicono che gli italiani sono, nel confronto internazionale, mediamente ricchi, hanno un'elevata speranza di vita, sono in gran parte soddisfatti delle loro condizioni. L'inazione è sostenibile per un periodo anche lungo, potrebbe però generare un declino protratto. La ricchezza è il frutto di azioni e decisioni passate. Il PIL, legato alla produttività, è frutto di azioni e decisioni prese guardando al futuro. Privilegiare il passato rispetto al futuro esclude dalla valutazione del benessere la visione di coloro per cui il futuro è l'unica ricchezza, i giovani. Ecco, queste le parole del governatore. Come sentite, è una descrizione sobria, richiama in maniera che può essere anche considerata polemica nei confronti dell'impostazione della politica economica attuale, la necessità di puntare alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari. Io per esempio su questo dissento, ve l'ho sempre detto, dissento. L'Italia non ha una percentuale elevatissima di rapporti a tempo determinato. Per esempio la Spagna ci batte, non solo la Spagna, il Regno Unito ci batte, quindi non è vero che l'Italia è il paese della vergogna dei precari. È vero piuttosto una cosa, e questo per esempio io contesto al governatore di non averlo detto: per superare in maniera stabile la questione che a pagare tutele impropriamente deboli nel mercato del lavoro siano solo i giovani, bisogna impostare la questione di un riequilibrio delle tutele di tutti coloro per pagare le cui tutele le aziende finiscono per prendere con i contratti a tempo solo i giovani. E cioè esiste un problema del riequilibrio delle tutele nel mercato del lavoro, e questo ce lo ricorda Pietro Echino, ce lo ricorda i discepoli di Marco Biagi, ce lo ricordano tutti coloro che propongono per esempio una visione un pochino meno rigida, più flessibile, per cui le tutele crescono con la durata del rapporto di lavoro. E sarà così forse che non faremo pagare ai giovani il prezzo troppo pesante che le aziende devono sostenere per i troppi diritti dati agli inners, a quelli che sono già nella cittadella del lavoro. Allora io penso che questa sia una maniera magari un po' corretta, ma di sicuro il governatore non ha detto i giovani sono più poveri. Nelle frasi successive del suo intervento poi ha citato uno studio del professor Carlo Cipolla, in cui ricordava che nel 600 capitò invece che nel giro di una sola generazione l'Italia, che era al doppio più o meno della media del PIL pro capite fino alla fine del 500, poi nel 600 entra in un cono d'ombra economico tale per cui nello spazio di una sola generazione l'Italia fa un enorme passo indietro. E ricorda il governatore, quindi, questi passi indietro possono avvenire, cioè è vero che da una generazione all'altra ci può essere un arretramento totale delle dotazioni di capitale, del reddito pro capite, delle prospettive economiche, per cui non è che nella storia non sia vero che possono esserci generazioni che si trovano improvvisamente spodestate dal presente e del futuro. Ma la domanda è: siamo oggi in queste condizioni oppure tutti coloro che lo dicono prendono un abbaglio? Ecco, e dopo questa impostazione che ha coinvolto in qualche misura il governatore, ma per fare capire che è un tema di cui ci si occupa anche al più alto livello, misurare lo sviluppo, capire se poi è giusto misurare lo sviluppo, la dotazione patrimoniale, il reddito disponibile di oggi con la stessa occhio di ieri, per questo mi sono permesso di scomodare il governatore. Però giro innanzitutto la domanda a Nicola Rossi, che è senatore del PD e insegna economia a Tor Vergata, e volentieri quindi gli giro la domanda: siano più poveri dei loro padri i figli di oggi? Buongiorno, innanzitutto è probabile che lo siano, e ora vedremo anche perché, ma la cosa che ci deve far riflettere è che la tesi secondo cui lo sarebbero per la prima volta nella storia è veramente un falso storico. Diciamo, qui abbiamo ricordato l'Italia del 600, ma la generazione di mio padre ha avuto livelli di nutrizione in termini calorici del 35% inferiori a quelli della generazione precedente. Questo sia perché c'è stata la guerra, sia perché ci sono state le scelte autarchiche del regime. I lombardi della fine del 700 e dell'inizio dell'800 avevano condizioni di benessere inferiori a quelli delle generazioni precedenti, e gli esempi possono essere tanti, diciamo, non sono assolutamente pochi. La cosa grave è ciò che è veramente un'anomalia, questo sì, per le generazioni attuali, è che tutto ciò è avvenuto non solo per tutto ciò che è accaduto nel mondo negli ultimi 15-20 anni, ma anche perché, e questo bisogna riconoscerlo, la generazione precedente ha avuto, come posso dire, diciamo, una presenza di cavallette forse oltre la media, nel senso che sono stati accumulati debiti, è stato consumato ciò che ancora non c'era, sono state date da parte, diciamo, per esempio delle classi sindacali, cose a chi già aveva, sottraendole a chi non le aveva ancora. Le classi politiche non hanno fatto tutto quello che potevano fare allora, perché oggi i giovani vivessero meglio. Basta ricordare solo che sì, il mercato del lavoro è stato liberalizzato, ma poco nulla è stato fatto sul fronte del welfare per renderlo compatibile con un mercato del lavoro diverso. In questo senso c'è un'anomalia, ma a questa anomalia si risponde non con quella che io chiamo la pedagogia della disgrazia, e cioè con il lamento continuo con cui la generazione degli adulti oggi in realtà non fa altro che giustificarsi nei confronti dei più giovani, dicendo loro che sono vittime di una congiunzione astrale. In realtà bisognerebbe fare un po' di pedagogia della durezza, ricordando ai ragazzi che l'avvenire lo si conquista giorno dopo giorno, che è un mondo per molti versi difficile e complicato, ma che lo si può piegare, per così dire, lavorando e studiando di più. Io devo dire che se uno si prende un po' la briga di scartabellare nei numeri dell'Istat, scopre che poi in questa specie di universo piatto senza speranza in cui viviamo nel nostro paese, poi qualche numeretto sarà bene ricordarlo a tutti, cioè solo nel 1980 o nell'85, quando noi molti adesso hanno la nostalgia degli anni 80, della vorticosa crescita, gli anni a metà degli anni 80 in cui la borsa cresceva molto, è vero, sono anche gli anni del debito, forse del debito pubblico, però ecco, però non sto parlando di secoli fa. Tra il 1980 e il 1985, se uno va a vedere la dotazione di frigoriferi e lavatrici nelle famiglie italiane, questi sono dati Istat, non è che li ho rielaborati, nell'80 il 95% delle famiglie italiane avevano il frigorifero, nel 2007, che è l'ultimo rilevamento che ho visto, il 99,3%, cioè siamo passati dal 95 al 99,3%. Lavatrici, 1980, l'83,8% delle famiglie italiane avevano la lavatrice, 97%. Nel 2007, e sto parlando proprio degli ultimi 15 anni. Ora voi mi direte, sì, che c'entrano i giovani con il frigorifero e le lavatrici? Progressioni di questo tipo non altrettanto accentuate, e comunque è abbastanza impressionante che siano 5 punti fino alla copertura totale nello spazio degli ultimi 10 anni. Se li prendete per le classiche graduatorie di andamenti o di indici che vengono proposti per integrare il reddito o il patrimonio, per misurare il benessere complessivo, cioè le aspettative di vita, eccetera, eccetera, in ogni caso troverete conferma di questo, cioè la mortalità infantile era ancora 15 per mille non 2-3 decenni fa, prima di scendere a 5 e a meno di 5 per mille nelle ultime rilevazioni dell'ISTE. Cioè io nella realtà, intorno a me, dati che confermino questa specie di disperazione per la quale si sentono i ragazzi protestare, io li vedo scioperare a fianco dei ricercatori e mi arrabbio perché non capisco perché devono protestare a fianco di coloro che vuole il posto all'università, quando loro dovrebbero protestare per la qualità dell'offerta formativa, che nella mia impostazione di rigore della finanza pubblica è alternativa a continuare a dare solo a soldi ai rettori, agli ordinari e ai ricercatori, è alternativa, i ragazzi dovrebbero protestare per altro, magari sbaglio io, ma tutti questi indicatori di disperazione intorno a me, nei dati concreti, non li so vedere. Quindi o non abbiamo l'attenzione di far riflettere i vostri figli sui dati concreti, oppure è vero che anche la vostra generazione di padri non ha chiaro quali sono questi dati concreti, perché una cosa è sicura, quelli richiamati dal professor Rossi, quelli che ci ho meno io, sono dati, devo dirvi la verità, oggettivi, non manipolati. Com'è allora che siamo tutti vittime di questo abbaglio collettivo? Non pensate che sto dicendo che i giovani d'oggi ci stiamo pensando abbastanza e gli stiamo dando il meglio. No, però per impostare al meglio come dargli quello che meritano, primo, bisogna che loro sappiano che non stanno all'inferno e bisogna che se lo meritino impegnandoli. Secondo, bisogna essere voi i primi motivatori a impegnarli, o no, altrimenti sbaglio io. Allora, abbiamo collegato con noi, io molto la ringrazio, anche il ministro della gioventù, Giorgia Meloni, e le chiedo un'opinione sincera su questa storia del malessere della generazione, se è figlio e come è figlio di una incapacità dei padri di saper leggere la situazione relativa di avanzamento del benessere della società italiana, primo. E secondo, che cosa in realtà concretamente e realisticamente in questo quadro di finanza pubblica, casini politici eccetera eccetera, sta facendo e si può fare per investire di più naturalmente sul futuro di giovani generazioni che protestano. Ecco, prego ministro, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, chiaramente insomma il tema è un tema di grande complessità. Allora io brevemente dico questo. Sono d'accordo per diciamo quello che manca delle giovani generazioni, nel senso che il passaggio che lei faceva sui ricercatori, ma se ne potrebbe fare uno molto più ancora più insomma curioso, no? Che è aver visto delle volte gli studenti scendere in piazza a difendere gli interessi dei baroni addirittura, no? Cioè contro la modifica dei meccanismi di selezione della classe docente all'interno dell'università. Quindi è vero che c'è, diciamo, delle volte una, a mio avviso, inadeguata consapevolezza da parte delle giovani generazioni e quindi una sostanziale difficoltà a battersi per i diritti veri e utili della propria generazione. Non sono francamente d'accordo sulla diciamo sul fatto che questo sia, che la condizione, la difficile condizione giovanile in Italia sia una questione, sia un abbaglio collettivo, perché al di là del fatto che se anche noi insomma contiamo diciamo l'attuale benessere delle famiglie, quindi i frigoriferi piuttosto che le lavatrici, chiaramente questo ha commisurato all'andamento della nostra società. Oggi è vero anche che hanno tutti un telefonino, ma se tu non ce lo avessi non saresti in grado di dare le risposte che la società si aspetta da te, perché tutto si velocizza e tutto comporta da te un impegno superiore che è dato anche dall'andamento della modernità. Quindi questo in qualche maniera va commisurato anche a come si vive oggi. Dopodiché è oggettivo che se anche i ragazzi, finché stanno all'interno del nucleo paterno, delle famiglie, che sono quelle che hanno beneficiato del boom economico e che erano giovani, diciamo così, durante il boom economico, stanno ancora bene, questi ragazzi nel giorno in cui dovessero scegliere di uscire di casa sarebbero in una condizione drammatica. E questo noi non lo possiamo negare, perché questa è la generazione che pagherà le pensioni di gente che è andata in pensione a 40 anni, che se va bene avrà, dopo aver lavorato una vita, una pensione che si aggira intorno al 45% dell'ultima retribuzione, mettiamola così. È una generazione che non avrà mai un posto all'interno di un'università, piuttosto che all'interno di un qualunque diciamo così posto pubblico, anche se io non sono un'appassionata della cultura del posto fisso, però perché è stato saturato il sistema con gente che è stata stipata dalle clientele della politica per 20 anni all'interno delle amministrazioni pubbliche. È una generazione che in sostanza si trova molte strade sbarrate, si trova molte difficoltà rispetto a quelle che c'erano, che avevano i propri padri. È un problema di opportunità. Dopodiché, che cosa si può fare e che cosa realmente questi ragazzi chiedono? Perché io ne incontro tanti dalla mattina alla sera e in verità scopro che non chiedono particolari scorciatoie, chiedono aspetti signor Ministro, prima di arrivare a che cosa si può fare, che cosa le chiedono, una domanda su quello che ha detto, perché questo è un aspetto, quello che rilevava lei. Attenzione, non commettere l'errore, Oscar, di considerare appunto gli indicatori di benessere patrimoniale delle famiglie in cui vivono i giovani come la dotazione vera dei giovani, perché poi i giovani che siano aumentati i telefonini e cose eccetera eccetera, non è quello il punto, perché quando poi provano a nuotare da soli, e poi soprattutto quelle sono le cose che non vengono percepite più come il benessere, quella è la dotazione minima. Ma allora, in un mondo nel quale dai telefonini alla prima, seconda macchina, le case della famiglia alla prima, la seconda casa non sono più percepite, perché lo sono come stock patrimoniale, ma non sono più percepite come il vero avviamento nella vita, perché la generazione dei nostri padri quelle robe lì non le ha avute. Io penso a mio padre e mia madre piegate sotto la guerra e con un tozzo di pane, e francamente quelli nella vita si sono fatti un fondo schiena che io me lo scordo, cioè, con tutti gli studi che ho fatto con la guerra, ho capito, ma io sono figlio di quella repubblicana, io aspetta, io non sono più giovane ovviamente, però se io faccio il paragone con la generazione di mio padre e mia madre era quella. Poi c'è la mia, di sicuro io rispetto a quello che hanno i figli dei miei coetanei, beh, i figli dei miei coetanei partono ulteriormente con quell'avviamento di dotazione patrimoniale, sono le famiglie più patrimonializzate dell'Ocse, lo sappiamo, però il ministro ci dice quello non è percepito come la cosa essenziale per andare avanti. Prima di arrivare ai problemi della generazione che deve porsi il problema del basso reddito sul posto del lavoro, della pensione che pagheranno, che sono tutti problemi giusti che affrontiamo nella seconda parte, però signor ministro, non è forse giusto un pochino che i giovani capiscano che tutta questa dotazione che hanno da parte delle famiglie non ce l'ha mai avuta nessuno nella storia del nostro paese? Quindi in fondo non è troppo giusto dire vabbè, ma mica mi puoi dire i telefonini, le case, le macchine, perché altrimenti viviamo in un mondo che la realtà non riesce bene a percepirlo, o sono io che sbaglio su questo? No, ma io non ho detto i telefonini, le case, le macchine, no, partiamo da questo presupposto, mi perdoni. In Italia non tutti hanno purtroppo delle seconde case da dare ai propri figli. Allora la domanda che noi dobbiamo farci è, perché voglio dire, io non ho avuto una famiglia che mi ha regalato una casa, e obiettivamente se io e sono una privilegiata di questa società, ma io non mi sarei mai potuta comprare una casa in condizioni di normalità, e quindi che cosa avrei dovuto fare nella mia vita? Ovviamente no, cioè cercare sempre ogni mese di arrivare alla fine. Ora il problema qual è? Il problema è che la condizione di quelli che non ereditano una casa è la condizione di gente che nella maggior parte dei casi non avrà mai uno stipendio e una stabilità per potersela comprare, e questo fa la differenza rispetto alle generazioni precedenti. Perché le generazioni precedenti, vuoi perché i posti di lavoro c'erano, vuoi perché i posti di lavoro erano fissi, vuoi perché le condizioni del diciamo immobiliare non erano le stesse, quella opportunità ce l'avevano. Allora noi non dobbiamo guardare chiaramente no quelli che stanno meglio, noi dobbiamo guardare il livello di quelli che stanno peggio. Quelli che stanno peggio oggi hanno delle condizioni molto più difficili di quelli che stavano peggio 20 anni fa. perché quelli che stavano peggio 20 anni fa avevano qualche opportunità di più, avevano qualche garanzia di più, erano più tutelati, avrebbero avuto una pensione, avevano delle certezze che oggi questa generazione non ha. Il vero problema a me pare questo. Poi certo, io non dico, noi dobbiamo dare per scontato che se c'è il telefonino, no, è come ieri avere il pane. Però signor ministro, ovviamente non è così. No, momento. Sì. Però signor ministro, 20-25 anni fa quelli che stavano peggio accettavano l'ingresso in posti del lavoro che oggi quelli che stavano peggio non accettano più. Questo è verissimo. Ah. Oh, questo è un tema realissimo. È vero che oggi per educazione per lo più e quindi per errori che hanno fatto i padri, per errori che hanno fatto le famiglie, ci sono, perché poi noi leggiamo tutti i dati, c'era un'inchiesta molto interessante che ha fatto Confartigianato, quotidiani, che diceva che ci sono in Italia, ci sarebbero 147.000 posti di lavoro che nessuno vuole fare, e anche se io francamente insomma sui numeri mi sembrano molto molto importanti, però è vero che oggi questa generazione delle volte pecca di, diciamo così, presunzione, cioè non c'è quella cultura che è sempre esistita e che abbiamo avuto tutti, che ho avuto anche io, che abbiamo avuto tutti, per cui il fatto che tu abbia un cervello non significa che nella vita non ti capirà anche di, non lo so, di lavorare al mercato, come abbiamo fatto tutti, e questo effettivamente è qualcosa che nelle giovani generazioni rischia di mancare. Che rischia di mancare per una sbagliata cultura che i genitori hanno imposto a questi ragazzi, per cui la famosa cultura del pezzo di carta, del lavoro intellettuale. In Italia esiste ancora questa differenza curiosa tra il lavoro intellettuale e il lavoro manuale. Anche su questo scriveva qualche giorno fa Alberoni in modo intelligente, ma noi veramente crediamo che oggi un tecnico elettronico faccia un lavoro manuale, un impiegato statale un lavoro intellettuale? Sì, o piuttosto il tecnico elettronico quotidianamente si deve rimettere in discussione, deve aggiornare se stesso, deve continuare a formarsi, per cui noi stiamo anche adeguando, diciamo così, la società, cioè non stiamo adeguando la società a un mondo che è cambiato completamente. La interrompo perché c'è la pubblicità e poi riprendiamo con il senatore Nicola Rossi, con il ministro Giorgio Meloni a tra poco. Eccoci, tornati in studio, e la generazione impoverita, per la prima volta nella storia italiana, quella dei giovani di oggi, quali sono i numeri veri e qual è la percezione dei numeri veri della dotazione patrimoniale del reddito disponibile, che viene poi percepita come quella realisticamente come minimale, per non considerarsi dei dropout, degli esclusi? Perché nel giro di pochi decenni poi chi stava sotto la piramide delle possibilità del basso reddito disponibile italiano era più disponibile a sporcarsi le mani con lavori insomma un po' più duri, mentre oggi nei vostri figli questa disponibilità è sparita? Molti protestano, ricevono sms che dicono: ma che cavolo dici, io sarei disposto a tutto, eccetera. Non lo so, ognuno ha i termometri che vede. Io vedo il giovane all'università, effettivamente più di loro mi dichiara che non ha esperienze continuative più di poche settimane, magari alla fine ancora del corso universitario. A me sembra che effettivamente sia un po' cambiata questa attitudine. Vediamo ancora di capire con un'altra voce, quella del professor Vincenzo Galasso, che insegna economia politica alla Bocconi, che ci ha raggiunto qualche anno fa, 2 anni e mezzo fa, aveva scritto un libro con il professor Tito Boeri della Voce.info, esattamente dedicato, con un titolo provocatorio a questo tema. Il titolo era Contro i giovani, se non ricordo male. Professor Galasso, lei cosa dice? Questa generazione è davvero una generazione di impoveriti cronici? Buongiorno, ma direi che questa è una generazione che rischia moltissimo di essere una generazione di impoveriti cronici, nel senso che se noi guardiamo un po' a quelle che sono appunto le statistiche a nostra disposizione, vediamo che questi sono dei ragazzi che entrano sul mercato del lavoro con una situazione molto peggiore di quella che accadeva in passato e soprattutto quella che accadeva ai propri genitori. I termometri che possiamo guardare sono quelli della disoccupazione giovanile, del tasso di lavoro a tempo determinato o quello del salario iniziale, e su tutti questi diversi indicatori vediamo che questi ragazzi fanno peggio della generazione che li ha preceduto. Quindi diciamo, da questo punto di vista credo che il rischio c'è, è un rischio grande, ed è un rischio che questa sia una generazione di persone che rischia di far peggio dei propri genitori. Professor Nicola Rossi, a questo punto entriamo con lei, con il secondo giro del ministro e poi col professor Galasso, nel punto, diciamo, dolente vero, in cui poi la politica dice ma poi si divide. Perché ovviamente un conto è pettinare la bambola nel verso in cui vuole essere pattinato, come si dice a Roma, e cioè dire ai giovani, alle giovani generazioni, dovreste avere quanto avevano i vostri genitori, il che significa le stesse tutele del lavoro che sono date dallo statuto al posto del contratto a tempo indeterminato, lo stesso tasso di sostituzione delle pensioni di quando c'era il sistema retributivo invece che quello contributivo, eccetera eccetera. E allora chiaramente gli si soffia sullo scontento, gli si monta. Dopodiché, naturalmente, chi fa così politicamente è un po' scorretto, perché sa che tutto quello non è possibile. Quelli sono esattamente gli errori che non rendono sostenibile il finto mondo che viene rimpianto dalle giovani generazioni di oggi, come quello, il mondo dell'Eldorado da cui sono esclusi. Ma quelli sono gli errori di quel mondo, quelli che non lo rendono sostenibile, quello, in altre parole, che ha depresso verso il basso la crescita italiana. Questo è il minoritario liberista Giannino, si piglia la responsabilità di pensarla così, poi sono minoritario e vabbè. Ma invece, se una politica responsabile, e ci sono politici responsabili ovviamente, dovesse dire a questi giovani, partendo dal punto di partenza, che era quello che ha richiamato lei, ha richiamato il ministro, perché il ministro ha detto qui un problema c'è delle giovani generazioni, inutile far finta, a Giancarlo Giannino e Galasso, d'accordo, siete tutti e tre d'accordo, ma quando poi bisogna realisticamente dire ai giovani, dovete chiedere alla politica che la politica vi dia un empowerment su questo, questo e questo, per avere più reddito disponibile, un po' più di tutele, un tasso di sostituzione della pensione alla fine di una lunga vita lavorativa che non sarà di posti fissi eccetera, ma meno misero di quello che è alla vostra portata. Bisognerebbe però dirgli, cari ragazzi, dovete piantarla di solidarizzare con tutti coloro che invece, dopo avervi rapinato di tutte queste cose e avervi convinto che è l'Eldorado, non vi dicono che in realtà è l'errore della società italiana. Io la vedo così, professor Rossi, ma può essere che mi sbaglio. Lei come la pensa? Oh, ci arriviamo subito. Il punto è proprio prospettico, nel senso che i giovani potranno mantenere un tenore di vita come quello delle famiglie da cui partono, solo studiando e lavorando di più, accettando lavori che per esempio potrebbero inizialmente pensare di mettere da parte, ma solo capendo che non possono far altro che reagire in questa maniera ad una situazione che certamente molto favorevole, non è inutile nascondersi dietro un dito. Quello che è gravissimo è che la generazione che li ha preceduti, che ha comprato quei frigoriferi, che ha comprato quei telefonini, tutti a debito, scaricando le rate sulle giovani generazioni, perché questo è quello che è accaduto e che sta accadendo tuttora, la generazione che li ha preceduti oggi giustifica e si lava la coscienza dicendo siete vittime appunto di una congiunzione astrale o di qualche cosa che non è mai accaduto nella storia. Questo secondo me è molto grave. Ai giovani invece andrebbe detto oggi che non hanno altra strada se non quella di fare come molti hanno fatto nella storia dell'uomo prima, lavorare di più per riconquistare il benessere perduto. Nel contempo dovremmo però, e mi rivolgo in particolare al Ministro, evitare di aggiungere a ciò che già abbiamo fatto in passato, che è andato a scapito delle giovani generazioni. Da qua a qualche giorno arriverà in Parlamento la legge di stabilità, che conterrà una norma sull'università che nei giornali passa per essere soldi all'università, naturalmente tutti lieti. Dietro quella norma c'è una ope legis a favore dei ricercatori di proporzioni bibliche, tanto bibliche che alcune università non se ne potranno avvalere, perché se se ne avvalessero l'entità delle spese per stipendi sul totale delle spese per l'università andrebbe oltre il famoso 90%. E quindi non se ne potrebbero avvalere. Ora, se è chiaro che se quella norma passa, e probabilmente purtroppo passerà, il risultato sarà che noi impediremo a chi oggi ha 20 anni di poter domani accedere all'università come vorrebbe, e metteremo un tappo sull'università italiana di proporzioni epocali. Allora, non possiamo con questo bel lato, giudizio del professor Rossi, io mi faccio ulteriormente amica la rete 29 aprile dei ricercatori italiani, che già mi copre di decine e decine di mail ogni giorno dicendo che io sono il nemico numero uno dell'ope legis. Io la penso come il professor Rossi, io resterò il nemico numero uno. Loro dicono di non volere l'ope legis, ovviamente, e quindi io do atto come sempre che la rete 29 aprile dei ricercatori dice che non vuole l'ope legis. Comunque resta il fatto che su questa norma c'è un grandissimo punto interrogativo. A pensarla così siamo in minoranza, a destra, a sinistra, a così siamo in minoranza, perché il più che sta passando è che quella è invece la dotazione finanziaria che serve per attuare la riforma Gelmini, che piace molto a Confindustria per le nuove cose di merito che ci sono, che piace a quasi tutta la maggioranza e che aveva anche dei sostenitori nell'opposizione. Io sono un po' dell'idea che il più di quei finanziamenti serva esattamente a quello che dice il professor Rossi, ma sentiamo il ministro Meloni su questo, non solo sul punto della legge di stabilità, su cui poi lei ha personalmente messo quasi per niente mano, quindi è un po' improprio chiederglielo a lei, siamo sinceri, perché bisogna chiedere le responsabilità a chi ce l'ha, le responsabilità, e a me scoccia non chiedere a lei di una cosa in cui dobbiamo dire per informazione che lei quelle robe non è il suo dicastero, quindi non ci mette troppo bocca. Ma al di là di questo, come si fa a dire ai giovani dividetevi da quelli che vi dicono quello è l'Eldorado, quando quelli sono i rapinatori in realtà, ecco? No, ma guardi, questo è un grande tema, nel senso un po' quello che ci dicevamo prima. Io sono sempre stata, sono una persona che fa politica quando era giovanissima, e quindi ho sempre creduto tantissimo anche nel valore che può avere la partecipazione, che può avere la mobilitazione, che può avere in qualche maniera dire la propria, se si ha il coraggio di dire la propria, effettivamente, come dicevamo prima, per fare gli interessi della propria generazione. Però io voglio anche dire questo: io non mi capita spesso, devo dire la verità, di incontrare ragazzi e ragazze che chiedano alla politica, allo Stato, di avere qualche forma di appunto assistenzialismo, piuttosto che qualche forma addirittura di scorciatoia. A me capita di vedere ragazzi e ragazze che chiedono semplicemente la possibilità di misurarsi ad armi pari, cioè di essere messe in una condizione di partenza che non dipenda dalla realtà dalla quale si proviene. Cioè il vero problema dell'Italia è che l'Italia è una nazione bloccata dalle rendite di posizione, cioè l'Italia è una nazione nella quale buona parte di quello che tu puoi fare nella vita dipende dalla condizione dalla quale provieni. Allora lo dico anche per dare delle risposte. Poi alla fine che cos'è che il governo può fare e sta facendo? Noi abbiamo lavorato e lavoriamo su quella che abbiamo definito la rivoluzione del merito, no? Cioè passare da una società che mistificava uguaglianza con egualitarismo, e c'è stata regalata dalla cultura sessantottina, che voleva uguaglianza al punto d'arrivo, a una società capace di garantire uguaglianza al punto di partenza. Ora questo come si fa? Lo si fa riformando la scuola e l'università, lo si fa garantendo diritto allo studio, perché poi si dice le risorse questo governo per l'università ha tagliato eccetera, ma questo è il primo governo nella storia d'Italia che ha garantito una borsa di studio a tutti quelli che l'avevano, a tutti quelli, chiedo scusa, che la meritavano, che ne avevano i requisiti. E questo significa anche per esempio garantire mobilità, perché uno dei grandi temi dell'Italia è che non c'è mobilità, oltre a non esserci mobilità professionale, e questo è un problema culturale, prevalentemente c'è una scarsa mobilità geografica, quindi molto dipende dalla città nella quale io nasco, molto dipende dalla famiglia dalla quale provengo. Addirittura, Giannino, noi siamo in una società nella quale, a fronte di tutto quello che ci diciamo, ci sono fior fiore di aziende che continuano a produrre degli statuti nei quali si prevede la priorità di assunzione per i figli dei dipendenti. Cioè siamo in una banche, realtà, banche, soprattutto le banche. Soprattutto, quasi esclusivamente, ma soprattutto banche, siamo in una realtà nella quale il posto fisso è diventato ereditario. Allora è evidente che tutto questo crea un sistema assolutamente malato. Allora che cosa si fa? Riformare scuola e università, garantire diritto allo studio, mettere in piedi degli strumenti che esistono in tutte le grandi democrazie occidentali e che in Italia non si è capito perché non sono mai esistiti. Le faccio l'esempio più banale: il vero prestito d'onore. In Italia non c'è, ma noi abbiamo chiamato tante norme che in realtà era un'altra cosa, prestito d'onore. Ma quello che il prestito d'onore è ovunque, cioè la possibilità per un ragazzo, ad esempio, che vuole fare l'università, di potersi mantenere 5 anni attraverso un prestito che restituisce quando è nella condizione di farlo, per studiare anche se alle spalle non ha una famiglia che gli possa mantenere gli studi, è una cosa che non è mai stata fatta in Italia seriamente, la stiamo adesso facendo noi con un investimento del Ministero della Gioventù su questo tema. Adeguare la società a un mercato del lavoro che cambia. Noi abbiamo un mercato del lavoro sempre più flessibile, ma abbiamo una società che a questo non si è adeguata. Allora, per esempio, perché chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato non può avere la possibilità, anche se magari guadagna bene, anche se ha una concreta prospettiva di stabilizzazione, non può accendere un mutuo perché non ha le garanzie sufficienti da dare, la banca non gli darà il mutuo? No, perché? No. Allora esatto. Noi stiamo investendo 24 milioni di euro per un fondo di garanzia sull'accesso al mutuo, acquisto della prima casa. La fermo perché ci sono le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci, tornati in studio. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Nicola Rossi, a Giorgio Meloni, al professor Vincenzo Galasso, dal suo punto di vista, per la sua esperienza non solo di economista ma anche di insegnante, sia pure insomma in un posto di eccellenza come la Bocconi, dove non è proprio che si misuri la stratigrafia dei redditi e delle possibilità dei giovani, anche se c'è gente che ha merito e che gli viene riconosciuto il diritto allo studio alla Bocconi a prescindere dal reddito. Però dal suo punto di vista, come si fa a convincere la giovane generazione di dividersi nelle richieste da coloro che in realtà sono poi i veri responsabili, non di un Eldorado, ma della rapina ai danni delle giovani generazioni, perché quei diritti hanno un costo che, esteso ai giovani, lo renderebbero ancora più insostenibile. Come si fa a spiegarglielo? Ma secondo me questa diciamo è stata la grande genialata, la grande invenzione della generazione, diciamo, dei padri di oggi, quello di riuscire a legare talmente bene a loro stessi figli da far sì che questi non riescono a vedere o forse a capire quanto sta accadendo. Perché dico questo? Perché tutto sommato siamo di fronte a una situazione di un estremo familismo in cui oggi a un figlio interessa veramente aumentare la flessibilità del mercato del lavoro anche ai propri padri per riuscire magari ad ottenere un miglior lavoro? A me pare di no. A me pare di no, perché loro vivono no, in casa con i genitori. Loro difendono i diritti dei padri e li vogliono per sé, questo è il punto. Esatto. Non solo, ma difendono i diritti dei padri perché loro vivono a casa dei padri, o vivono con i soldi dei padri, o con la pensione dei nonni, o tramite un nonno in famiglia, eccetera. Perché in Francia vediamo che quando Sarkozy cerca di fare una riforma delle pensioni ci sono tanti giovani per strada e così via. Che dicono no al passaggio da 60 a 62 anni dell'età pensionabile, robe da pazzi. Cioè. Esatto. Purtroppo roba da pazzi, io credo, perché c'è un estremo componente di familismo, cioè molti giovani pensano che i propri problemi verranno risolti non attraverso maggiore meritocrazia o attraverso un mondo che consenta loro di fare in funzione di quanto sanno fare, ma molto spesso attraverso la famiglia. E allora io credo che il mio mestiere me lo prendo, è quello di fare il provocatore, cioè io penso che i giovani, qualunque sia la vostra possibilità di dotarvi di capitale umano eccetera eccetera, dovete dire a chi ha un posto di lavoro oggi a tempo indeterminato che sono le sue tutele che vi impediscono di avere un miglior lavoro. Se pensate che sia impossibile oggi avere una casa perché ve la paga papà per il mutuo, dovete ragionare che non è affatto giusto rispetto al basso reddito disponibile che abbiate, che la prima cosa che pensate è comprarvi un mattone nella vita. Non sono stupidaggini quello che vi dico, solo che vi sembra un provocatore a dirlo. Interrogatevi se il fatto che vi sembri un provocatore non derivi dal fatto che la percezione che avete della realtà intorno a voi sia falsata da qualche cosa che dovreste guardare con occhiali diversi. Non faccio il predicatore, ma sono molto convinto di quello che dico, perché vedo le reazioni polemiche che stanno arrivando. Sentiamo qualche telefonata. Pietro da Milano. Buongiorno dottor Giannino. Buongiorno. Giovane di 26 anni e sono allibito dai suoi discorsi. Io ho un genitore, una coppia di genitori che 35 anni fa, mio padre tempo indeterminato e mia madre precaria, con 7 anni di duri sacrifici, con le loro forze si sono ristrutturati casa. Io precario, la mia ragazza tempo indeterminato, se mio padre non mi garantisse un mutuo io non potrei neanche ristrutturarmi in casa. Questo mi sembra un'evidente disparità. Altra parentesi brevissima, mi sembra che lei ce l'abbia particolarmente con i ricercatori e settori di cui io faccio parte, probabilmente lei non ha idea di cosa vuol dire fare ricerca. Ma non è vero, guardi, io c'ho un corso all'università, piantatela lì di dire che lo sapete solo voi, e mi incazzo perché ricevo 100 mail al giorno di insulti. Non posso tollerare l'idea che ogni ricercatore dica che solo lui è il depositario di come si riforma l'università italiana, e mi incazzo per questo, perché mi becco tanti di quegli insulti a cui rispondo civilmente a ognuno. Però non è possibile che voi diciate che uno non lo sa se non vi dà ragione. Io penso che sia giusto che nella storia dell'università italiana ci sia una discontinuità sull'Ope Legis. Voi continuate a dire che non volete l'Ope Legis, eppure di quello si sta parlando. Il senatore Rossi, lei pensa che viene pagato dai nemici dei ricercatori che non conosca l'università italiana per quello che ha detto? Io penso di no, e rivendico il mio diritto di minoranza di battermi contro quello che a voi sembra invece il capolavoro della civiltà: avere per l'ennesima volta un posto all'università. Per me l'università è offerta formativa qualificata e competitiva, quella che, a furia di pensare all'università come il problema di chi ci lavora, l'università italiana non sa offrire. Mi dispiace che mi sono incazzato anche oggi, però non so che fare veramente. Luca da Firenze, prego. Sì, buongiorno dottor Giannino. Guardi, allora le dico subito, io sono credo un caso particolare, perché vi volevo portare la mia esperienza. Laureato massimi dei voti, PhD, le aziende mi hanno cercato prima della fine del PhD, ho iniziato a lavorare per una multinazionale, ora lavoro per un'altra multinazionale, però in Italia l'ascensore sociale è completamente bloccato. Una persona che non ha alle spalle una famiglia, anche con stipendi che all'epoca dei nostri genitori, 4 milioni al mese magari, ti permettevano di fare tante cose, oggi non ti permettono di comprare casa, non ti permettono di fare una famiglia. Anche l'onorevole, volevo dire all'onorevole Meloni, che per i giovani, e a 33 anni credo che in un paese normale non si dovrebbe essere più considerati giovani, come lo sono considerato credo ancora io, per aiutare i giovani bisognerebbe fare solo alcune cose, non quelle che ha detto lei, garanzia delle... Tipo delle, qualche esempio? Cuneo fiscale, come spiegato anche dal dottor Rustichini, quindi sì, far ripartire anche l'economia. Rapido, l'ultimo esempio perché devo chiudere. L'ultimo esempio, case come tipo inglese, 200.000 euro per le giovani coppie, si paga l'affitto e si paga la casa. Allora, la casetta con il chiaro, l'housing sociale, sull'housing sociale si vedrà se si arriva a questo, perché c'è un programma che è in corso a Parma, il ministro ha aperto per la prima cosa questa cosa, per cui Cassa Depositi e Prestiti e le fondazioni sono impegnate. Cuneo, per abbattere il cuneo bisogna abbattere la spesa pubblica, per abbattere la spesa pubblica in termini reali bisogna riconcentrarla su alcune cose come quelle di cui si dice oggi. Nessuno vuole mettere mano alla riduzione però in termini reali della spesa pubblica italiana, e questa è la drammatica storia che abbiamo alle spalle in questi 16 anni di Seconda Repubblica, di destra e di sinistra i governi. La spesa pubblica non la vuole abbattere nessuno. I giovani dovrebbero dire: chi mi taglia la spesa pubblica e rialloca qualcosa di spesa pubblica per fare i discorsi che hanno fatto qui, e li ringrazio, il senatore Nicola Rossi, il ministro Giorgio Meloni e il professor Vincenzo Galasso, quei giovani lì capirebbero che con meno spesa pubblica c'hanno più chance di avere qualcosa per loro, altrimenti incrementalmente resterà tutto nelle mani di beneficiari di oggi, che sono i loro nemici. Questa è la mia conclusione. Ringrazio in regia Filippo Aureggi, Alessandro Marcutulli in redazione, Franco Piantonida come assistente alla diretta. Linea Giornale Radio, appuntamento a domani.